Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, il programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane, anche oggi giovedì 9 gennaio 2025, ma andiamo subito con la sigla di apertura per questo programma. Bene, questo era il brano di apertura, di inizio per questo programma che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane. Trasmettiamo da Udine, ricordo che il programma funziona grazie all'impegno dell'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste, e oggi è diretta come sempre, è 9 gennaio 2025. Andiamo ora all'ascolto di una band statunitense. Loro sono di Portland, nell'Oregon, e si chiamano Wild Mohicans, e questo è il loro album datato 2015, Get Me Out of This Hell. We'll be right back.

Eccoci qua in diretta anche da questa parte dello studio di Radio Onde Furlane per questa puntata di Zardins Magnetics di giovedì 9 gennaio 2025. Come sempre anche noi qua siamo in carne e ossa da questi microfoni, solo per introdurvi un poco alla puntata di stasera, che sarà divisa in praticamente in due parti. Nella prima faremo qualche così illustreremo, ecco, una situazione che c'è stata che è stata insomma messa illustrata da in un articolo dell'ultimo numero di Nunatak, la rivista di storie, cultura, lotte della montagna, e la situazione inerente ai drusi del Golan occupato. La seconda parte sarà dedicata a ulteriori considerazioni sulla GPA, sulla gravidanza per altri, annesse e connesse, insomma, problematiche, eccetera. E ancora un po' di musica e poi partiamo. Eccoci qua, come promesso, con questo così intervento sui drusi del Golan occupato. Ci è stata appunto data occasione di parlare di questa questione da un bell'articolo su Nunatak, che è una rivista da molti anni, insomma, la conosciamo, che viene scritta nel, insomma, territorio che è quello insomma delle Alpi occidentali, Piemonte, eccetera, Liguria, eccetera. E insomma, voglio anche dire che ne trovate delle copie, se abitate qui in zona, ne trovate delle copie in distribuzione allo spazio di Via dei Rubeis a Udine. Questo numero era, insomma, come sempre raccoglie vari contributi che, insomma, hanno a che fare con sia con l'ambiente sia con col problema dell'ambiente, anche con l'ambiente, anche senza fare problema, voglio dire, con questioni della storia moderna, dell'evolversi delle questioni, ecco, dei processi anche storici. E appunto, tra i vari contributi c'è questo Javlani tra i contadini drusi apolidi delle alture del Golan occupato. Una, però, prima facciamo una premessa introduttiva. In un numero, cioè, a me è capitato, o meglio, una, una mia testimonianza. Tempo fa, appunto, dietro un banchetto di questa distro che abbiamo, di questa distribuzione di volumi, di materiali, di opuscoli, eccetera, qualcuno, sfogliando un attack, vedendo titolo di un articolo, così ha avuto un motto così un po', diciamo, fastidioso di superiorità, leggendo che c'era un contributo che insomma a proposito della tradizione, ecco, quindi era destava ilarità il fatto che su una pubblicazione, diciamo, di movimento, come che si nomina rivista di storia, culture, lotte della montagna, ci fosse questo termine tradizione. Poi dopo, il numero successivo della rivista ha ospitato un intervento, appunto, in risposta all'intervento che c'era stato, appunto, su questo discorso della tradizione, come anche a testimoniare che il discorso, insomma, di mettere in piedi una rivista, va bene, bisogna avere più o meno una cornice del discorso che si vuol fare con una rivista, però ciò non toglie che si è aperti anche alla discussione. Non esistono, ecco, Vangeli predefiniti, sì, cioè Vangeli, non esistono confini definiti di cose che si possono dire e non si possono dire, di cui si può discutere o no, ecco, nel senso che, ad esempio, questo discorso della tradizione, in particolare su Nunatak, è abbastanza ricorsivo, nel senso, cioè ricorre da un po' di tempo, è una questione anche che è stata affrontata in maniera così anche dialettica, ecco, come dimostra questa risposta scritta all'articolo precedente, appunto, che tra il numero 71-72 e il numero 73. Non è molto così, non è neanche tanto manipolabile questo discorso, perché, cioè, appunto, non è agevole da manipolare, nel senso che comunque è scontato che non ha un significato immediatamente. In sostanza, la critica che faceva insomma il lettore di Nunatak era che non è possibile immediatamente dal termine tradizione dedurre insomma una controstoria immediatamente spendibile in termini, diciamo così, sovversivi, ecco, dove appunto di critica alla modernità, di critica alla tecnologia. Non è così, nel senso che, secondo questo lettore che scrive, è una cosa un po' più sfaccettata, dipende molto dai contesti in cui facciamo, cioè dal contesto che va definito in cui si fa questo discorso, ad esempio, insomma, dal concetto di oralità, per dire, che insomma viene tirato in ballo, al discorso del dialetto, che appunto può essere uno strumento più o meno vivo, alla canzone stessa popolare, ai canti popolari, che non sono di per sé non hanno di per sé un messaggio così di speranza, ecco, o di tutt'al più, cioè di solito anzi hanno un messaggio di conservazione, di protezione, ecco, di determinati valori. Ma questo non toglie che molto spesso, almeno insomma lo stesso numero di volte, dentro i messaggi, dentro i contenuti che la tradizione tramanda, appunto, sono anche insite delle prospettive, diciamo, le prospettive diverse, le prospettive ancora non esplorate, e Ecco un po' il discorso che si faceva, che si può fare insomma sulla scorta della visione storica, della visione del processo storico che aveva Walter Benjamin. In sottofondo state già ascoltando una qualche insomma musica che proviene da quello di su cui andremo a parlare fra poco, nel senso che è un musicista siriano druso che ha così rivisitato, diciamo, tutta una serie di e portato e musicato, se non altro, una serie di poesie, canzoni nazionali e rivoluzionarie dei vari popoli oppressi di quei territori, appunto, spartiti dalle potenze coloniali nei vari stati. In particolare, appunto, vi anticipo, il Golan è proprio una regione montuosa che praticamente divide Israele, Libano, Giordania e Siria, ecco, queste entità statali, e l'articolo appunto esplora la possibilità di schivare le trappole appunto della statualità. ولكن يوزع طيب العطشان رفقات ومشتاقين وجهك شاحب ولكن يوزع طيب العطشان رفقات ومشتاقين واحزانك والامك ضريبة حبك لناسك تحادي تموت تدفي تطلع منه أجمل حي تحادي الموت تدخل وتطلع منه أجمل حي وجهك شاحب ولكن يوزع ضيق يوزع ضيق زمن تعدوا تقطعوا وترجع ولا في امي تغسلك ومن خبزات هاد الشبع وجوا السجن ما في زمن تعدوا تقطعوا وترجع ولا في امي تغسلك ومن خبزات هاد الشبع وصوت الصمت عالي يقطع صوته كل شوي عني ودمع الرجال غالي لكن لو نزل تدرون شو معناه وصوت الصمت عالي يقطع صوته كل شوي عني ودمع الرجال غالي لكن لو نزل تدرون شو معناه وحدو الحجر ما بيبكي وانتو ناس الدمع مش هم بس يبقى عالي الراس ما نرجع ولا نبيع المبادئ ولو بالكيد ولو بالكيد حار الموت تدخل وتطلع منه أجمل حي اتحاد الموت تدخل وتطلع منه أجمل حي وجهك شاحب لكن يوزع ضيق يوزع ضيق ولو يرموك بلا عتبي لو وحدك بين جدرانك عشب جواك رح يطلع ويزهد غصن وجدانك مع قبطرك يا هالمشعار تحفرها رح يطانك وانت الحر لو بالجيد ومنك فوق Eccoci con questa musica così quasi uscita da una realtà parallela, non so. Sì, è anche di un'epoca lontana, nel senso che penso che sia una canzone degli anni 80, no? Cioè registrazione degli anni 80. L'artista, non l'abbiamo detto, si chiama Sami Shukair, è nato nel 1957, come dicevo prima, artista siriano druso, noto per le sue canzoni nazionali rivoluzionarie. Questo artista, una verso delle sue canzoni, se vivi, vivi libero, oppure muori in piedi come gli alberi, è stato inciso come epitaffio sulla tomba di un combattente guerrigliero, prigioniero per meglio dire, dell'esercito dello Stato israeliano, Hayel Abu Zaid, che morì nel 2005 a causa di una malattia, ecco, sì, rilasciato proprio negli ultimi giorni di vita dalla prigionia, ed era un combattente appunto di origine drusa. Un fatto così anomalo, perché per consuetudine i defunti della comunità drusa vengono seppelliti in ossari comuni, perché bisogna così rivolgersi alle credenze religiose di questa minoranza dell'Islam, una minoranza se non sbaglio, vabbè, non lo trovo, ma comunque ecco, era una corrente, ecco, minoritaria dell'Islam, del ramo ismailita, ecco, l'ho trovato, è una scissione che dal sciismo che si origina nel XI secolo. Quindi le credenze religiose identificano le anime come immortali, mentre i corpi sono delle camicie, delle vesti provvisorie, e quindi per questo motivo i defunti vengono seppelliti in questi ossari comuni. Nel caso di questi martiri della resistenza, caduti appunto in questi lunghi anni di resistenza, si fa un'eccezione e si prevedono delle tombe individuali. Allora, come dicevo prima, le alture del Golan occupato appunto da Israele in maniera così abusiva, come molte altre situazioni, si trovano esattamente nel punto di contatto tra Siria e Israele, sono state occupate dopo la guerra dei sei giorni nel 1967 a scopo preventivo da Israele, nel senso che hanno un'importanza strategica proprio dal punto di vista geografico, ecco. Come sappiamo, tutte le situazioni, nonostante insomma i tempi tecno di follia che viviamo oggi, ha ancora importanza la presenza dei corpi sul campo concreta, e quindi in ogni caso quando un esercito possiede un punto più alto dell'avversario, del nemico, ha sempre una condizione, diciamo una situazione di vantaggio strategico, e per questo Israele le ha occupate in maniera diciamo permanente da quel 67, poi nell'81 se l'è addirittura se l'è annesso al territorio statale, in maniera unilaterale, nessun organismo sovranazionale ha riconosciuto questo gesto, fino ad arrivare al 2019 sotto l'amministrazione Trump 1, dove appunto insieme al discorso di Gerusalemme Est Trump ha riconosciuto anche le alture del Golan occupato come territorio di Israele, dello Stato di Israele. Allora, in questo articolo l'obiettivo è appunto quello di nel senso di contestualizzare la vicenda dei drusi come dei drusi sotto occupazione israeliana come laboratorio coloniale, nel senso che hanno subito una serie di oltre che abusi anche di ingiustizie, insomma di solite, ecco, di paragonabili diciamo in scala a quelle dei palestinesi, e però allo stesso tempo anche come un punto di vista delle forme di resistenza attuabili da un punto di vista attuabili su un contesto, su un piano diciamo comunitario, su un piano di resistenza popolare diciamo. Un'altra cosa che devo dire, chiaramente l'oppressione dell'occupatore israeliano è consistente, maggioritaria diciamo, c'è comunque anche il discorso della minaccia diciamo statuale siriana, nel senso che comunque in Siria, a parte gli ultimi sviluppi, quelli dell'ultimo mese, ma io parlo degli ultimi 12 anni, dove c'è stato appunto una situazione instabile, diciamo così, una guerra fra fazioni varie, e possiamo anche dire un crollo un ritirarsi, ecco, dell'entità statale siriana, e con tutte appunto le vicende che sono seguite, e quindi non c'era più questo diciamo riferimento che c'è stato per lunghi anni della Siria come alleata dei regimi diciamo così del blocco comunista, e insomma le cose erano un po' abbastanza, ecco, a rischio anche da quel punto di vista. Nell'81, dicevo prima, il Parlamento israeliano approvò l'annessione a Israele delle alture del Golan. Voglio ancora aggiungere che i drusi sono una comunità sempre diciamo di lingua araba, ecco, che Israele ha cercato di manipolare per contrapporla alla presenza palestinese, e quindi esiste una parte di drusi anche che sono cittadini che hanno preso la cittadinanza israeliana, e a loro, a differenza dei palestinesi, è concesso andare diciamo soldati, e nelle alture del Golan noi parliamo però appunto della comunità drusa delle alture del Golan. In questo territorio i drusi hanno rifiutato di prendere la cittadinanza, quindi sono apolidi, vuol dire che hanno una residenza ma non hanno i documenti, insomma i documenti dello Stato israeliano. Israele rilascia dei lasciapassare. Seconda cosa, appunto, sono, essendo le alture del Golan un territorio ricco di risorse idriche, cioè sono il serbatoio, diciamo, dell'acqua dolce per Israele, e inoltre ci sono, e quindi caratterizzato da, diciamo, da un'attività rurale molto florida, e quindi di conseguenza queste popolazioni che tradizionalmente le abitavano, le alture, hanno hanno svolto questa attività rurale, sono contadini da secoli. Ecco, e poi ultimo punto, hanno questa religione, diciamo così, strana, nel senso che è una religione, è una, insomma, sono delle credenze religiose, dicevo prima, che appartengono a una minoranza dell'Islam sciita, e sono una setta chiusa, endogama, non fanno proselitismo, e loro è un sapere esoterico, cioè la gran parte dei fedeli non conoscono i contenuti profondi del loro credo, ma che solo i livelli più alti degli iniziati conoscono queste fonti. Ecco, quindi nell'articolo si cerca di far vedere come, nonostante queste tre caratteristiche, che appunto dovrebbero essere messe nella categoria tradizione becera, diciamo così, quella che tende a conservare i valori dello status quo, nonostante questo la comunità drusa li ha fatti giocare costantemente in una maniera da slegarsi dagli oppressori. In questo caso, dicevo, ecco, sono finalmente arrivato di nuovo al 1981. Nell'81 la Knesset, dicevo, approvò l'annessione a Israele delle alture e la risposta dei drusi fu uno sciopero generale. Israele bloccò le forniture sia di elettricità sia dell'acqua, e loro si auto-organizzarono, collettivizzarono, diciamo, le forme di sussistenza agricola, distribuirono fra di loro il cibo. Parentesi, dopo il 67 comunque gran parte dei drusi furono costretti a fuggire, e da una popolazione di 142.000 sono scesi a 6.000 abitanti. Ecco, quindi la prima risposta fu questo, dello sciopero generale. Qui c'è una testimonianza che vado a leggervi, finalmente, un abitante che si chiama Saida, abitante attiva nell'organizzazione della lotta di quel momento. L'esercito israeliano aveva bloccato i villaggi, fu un assedio, era proibito uscire, era vietato vedere i vicini, non si poteva stare alla finestra, lo sciopero è stato difficile, i soldati distribuivano alle persone le carte d'identità israeliane, ma la gente le rifiutava, le bruciava. Poi sono arrivate delegazioni di arabi dalla Palestina, in solidarietà con noi, anche da Israele, sia arabi che ebrei. Avevamo sempre ospiti che portavano aiuti morali e materiali. A quel punto Israele ha bloccato tutto, impedendo alle persone e alle merci di entrare. Abbiamo allora creato un comitato responsabile della distribuzione del cibo, che per soddisfare le esigenze di tutti nel villaggio. I commercianti hanno contribuito. Chi aveva delle mucche distribuiva il latte per i bambini. I soldati dell'IDF reagirono bruciando i depositi di grano e di mangime per le mucche. I contadini si sono dati da fare, sia distribuendo le riserve che avevano di grano, sia correndo per spegnere gli incendi. È stato un momento di unità, ci sentivamo tutti uniti, stretti come un pugno. Non avevamo granché da cucinare, niente carne, niente negozi aperti, per 6 mesi così, ma quasi tutti avevamo in casa scorte di cibo, così siamo riusciti a resistere, condividendo quel che c'era. È stato un momento bellissimo, eravamo felici. Ecco, praticamente questo sciopero poi si conclude perché Israele poi invase il Libano nell'82 e quindi sì, l'oppressione non, insomma, l'occupazione non cessò, tuttavia sì, le cose andarono male, diciamo, dal punto di vista militare. Tuttavia i drusi del Golan riuscirono a non essere costretti a prendere la cittadinanza di Israele, dimostrando la propria estraneità e inimicizia nei confronti dello Stato di Israele. Si creò la solidarietà, si costruì insieme anche con i palestinesi, che appunto, come abbiamo sentito, erano venuti in visita, diciamo, avevano dato consistenti aiuti. E anche, diciamo, anche nel male, i prigionieri, i guerriglieri che furono catturati e messi in prigione, vennero in contatto con i guerriglieri palestinesi, e quindi, diciamo, si politicizzarono, ecco, subirono un'evoluzione, ecco, del loro percorso. Cosa dire ancora? Sì, c'è questa questione importante anche dei terreni aperti, no? dei comunali, si chiamano in Friuli, no? Quindi prima della rivoluzione industriale, diciamo, no? Parentesi, la vita delle realtà non industriali, ecco, del capitalismo, cioè, parlando in termini marxisti, di sussunzione formale, ecco, prevedeva appunto questi spazi vuoti dallo sfruttamento, che si chiamavano campi aperti, appunto, di uso comune, dove appunto lo Stato non, cioè le autorità, diciamo così, non mettevano le zampe, non sfruttavano, non pretendevano, ecco, sfruttamento, non sottoponevano al processo capitalista. Così è rimasto in questi territori, diciamo, dell'Asia occidentale, fino a quando Israele è arrivato e imposto le sue logiche liberiste, diciamo, all'occidentale. E quindi gli utilizzi comunitari di terre e acque sono impediti dalle normative, dalle leggi, ecco, si fanno bisogna pagare per adoperare questi terreni, queste acque. La comunità drusa del Golan ha reagito realizzando, ad esempio, cisterne di acqua, di raccolta dell'acqua piovana, e quindi reagendo con atteggiamento di Sumud, no? Che ha preso dai fratelli così palestinesi, un atteggiamento di fermezza. Il discorso che si diceva prima anche dell'albero, ecco, di cadere, di morire in piedi come gli alberi, l'albero appunto che sta in piedi con fermezza, ecco, non si piega. Ecco, questo io direi che possiamo concludere per questo argomento. Ci sarebbero anche altre cose interessanti, ma per questo siete invitati tutti a leggere l'articolo, appunto, di cui abbiamo parlato, che, ecco, ancora una volta lo ripetiamo, il titolo: Yavlani tra i contadini drusi apolidi delle alture del Golan occupato, sul numero 74 di Nunatak. عندنا يهوي ونحكي وحكي جر الحكي لما يفهم تلحقوا رفقات قلبي التعبوا مش قادر يقلوا إلك يا حلو بيت بقلبنا Bene, ora andiamo all'ascolto dei brani che vengono estrapolati così quasi a random. Ascolteremo comunque anche durante il prossimo intervento, magari in sottofondo, dei brani estrapolati da questa compilation Benefit che si chiama Hardcore Non Si Comanda, e che comunque tra l'altro era il terzo volume, e ricordo che era uscito nel 2013 già il terzo volume, che praticamente era compilation Benefit per la cassa antirepressioni delle Alpi occidentali. E partiamo intanto con, come dicevo, un po' così a random, perché sono 30 le band intervenute in questa compilation, tra l'altro tutte band italiane, e noi ci ascoltiamo questi Occhi Pesti con il brano L'Opportunità, e poi insomma un po' andremo così a caso a nostro gusto e piacimento, che tanto non riuscirete forse ad ascoltare bene perché ci sarà appunto l'intervento. L'Opportunità. Sì, un saluto anche da parte mia, e arriviamo allora al secondo argomento della serata, cioè questo così ritornare sulla gestazione per altri. E però prima di entrare proprio in merito alla questione, collegandomi all'intervento precedente, così vi leggo due righe insomma di Stefania Consigliere, che appunto, e le cui riflessioni ho proposto anche durante la scorsa trasmissione di qualche settimana fa, insomma, che parlava sempre di GPA. Stefania Consigliere, parlando appunto di individuazione e mutamento, dice: la libertà è la possibilità di lavorare i propri attaccamenti. E appunto quello che un po' si diceva prima sui drusi, no? Il fatto di riuscire a lavorare, diciamo, le tradizioni, lavorare le origini in una maniera sovversiva del presente. E infatti gli attaccamenti cosa sono? Gli attaccamenti sono ciò che ci tiene al mondo e anche ciò che rende la nostra presenza al mondo problematica. E allora arriviamo a parlare appunto di GPA. Il 21 dicembre dello scorso, sì, del 2024, a Lecco c'è stata un'iniziativa, una manifestazione delle famiglie arcobaleno e di altri gruppi LGBTQI plus, che si intitolava GP Amore Universale, uniti contro la legge Varchi, cioè la legge famigerata, insomma, che instaura che considera la GPA come un reato universale. E in occasione di questa manifestazione, compagne e compagni anarchiche antispeciste hanno prodotto un volantino che è importante perché un po' fa sintesi di tutte le questioni, insomma, che abbiamo cercato di così toccare nella precedente appunto nella trasmissione in cui abbiamo cercato di approfondire un po' la questione della GPA. Ma non solo questo volantino, che si intitola GPA è violenza sui corpi delle donne, quindi è chiaro, arriva subito al punto. E appunto, dicevo, non solo riepiloga un po' tutte le faccende, quindi la faccenda di classe, lo sfruttamento tecnologico, l'esproprio della potenza, appunto, della riproduzione da parte del dominio rispetto al corpo delle donne, e la confusione che spesso viene fatta tra libertà, autodeterminazione e liberismo, invece diciamo desiderio liberistico. E appunto, però, non solo, dicevo, questo volantino, che poi lo trovate in rete sul rovescio, insomma non è difficile rintracciarlo, è lungo, magari leggerò qualcosa ma non tutto perché sennò non riusciamo. Non è, appunto, è importante, dicevo, non solo per questa così sintesi di tutti i lati, gli aspetti critici di queste tecniche di sfruttamento della riproduzione, ma anche perché vuole appunto lavorare, non accetta che questa faccenda della GPA rimanga, diciamo, una specie di tabù, una specie di argomento intoccabile, perché se lo tocchi vieni accusato di essere omo, lesbo, transfobico, pro-life, di destra o di buttarti a destra, o se ti va bene, diciamo, essenzialista, se non proprio non... E infatti loro dicono, che hanno scritto questo, i compagni e le compagne che hanno scritto questo volantino proprio per auspicare il dibattito all'interno, appunto, del movimento anarchico e non solo, insomma, e anche LGBTQ eccetera, e di non fermarsi appunto a questa intoccabilità. Vi leggo questa ultima frase che loro mettono nel volantino: chiunque metta in luce tali aspetti critici viene tacciato di omo, lesbo, trans, queer, fobia e accomunato alle aree pro-life e all'estrema destra. Il dibattito quindi non è solo negato, ma viene attaccato chiunque non si allinei in toto alle istanze dei contesti arcobaleno, seppure per ragioni evidentemente molto diverse da quelle della destra e di quelle dell'area cattolica. Questo volantino è rivolto a tutti gli individui che orbitano in buona fede attorno a questi contesti, con la speranza che possa aprire un reale dibattito in merito a questa ed altre questioni. E, tra i vari argomenti, insomma, che vengono toccati in questo testo, viene anche detto che la gestione della capacità riproduttiva delle donne è sempre stata al centro della società patriarcale. la quale, dopo aver cominciato a gestire la riproduzione degli altri animali, ha trasferito questo controllo anche sulle donne, considerate anch'esse una proprietà al pari dei non umani. Tra l'altro, prima, si parlando appunto dei drusi, si nominava le terre comuni, e appunto la con l'enclosure, quindi con la chiusura delle terre comuni, nasce anche la lotizzazione del corpo delle donne, cioè si perfeziona, non proprio nasce, ma si perfeziona la lotizzazione del corpo delle donne, nel senso che anche le donne vengono, diciamo, le conoscenze, le sapienze, soprattutto relativamente alla cura della salute, vengono, e anche della riproduzione, vengono appunto recintate, e quindi nasce la caccia alle streghe, insomma la medicalizzazione forzata e viene sottratta la cura della salute alla sapienza femminile, appunto, e quindi avviene questa medicalizzazione dall'alto, oppressiva, no? E quindi anche qui bisogna lavorare appunto gli attaccamenti, nel senso di andare a vedere da dove si viene, cioè che cosa, come mai è successo questo, no? Cioè come mai è successo questo e come mai questo anche viene ancora propagato. E allora, visto che il tempo stringe abbastanza, rimaniamo su questa questione qua, cioè sulla praticamente sulla gestione della capacità riproduttiva delle donne, e sulla sull'esproprio, letteralmente, insomma, l'esproprio che viene fatto appunto di questa capacità riproduttiva. E per fare questo io sono andata a rintracciare questo articolo di Paola Tabet, che è una antropologa che, diciamo, è tra le componenti del femminismo materialista, e questo articolo è un articolo dell'85, quindi sono passati un bel po' di anni, però comunque già lei parla in generale dello sfruttamento della riproduzione, arriva anche all'utero in affitto, come viene detto così, e insomma fa un'analisi di questa, e questo articolo si trova su un libro che si intitola Non si nasce donna, che è appunto un libro che tratta di questa corrente del femminismo materialista. Ci dice Paola Tabet: correntemente si dice che le donne sono limitate nel lavoro produttivo a causa della loro funzione biologica di riproduttrici, ma la produzione di esseri umani non è essa stessa un lavoro? La procreazione, attività altrettanto fondamentale per la specie che la produzione dei mezzi di sussistenza, è un'attività che richiede un dispendio di energia che si può misurare. E qui lei dice che appunto ad esempio l'antropologia biologica, quindi i bioantropologi, definiscono proprio il lavoro come dispendio di energia. Ogni forma di dispendio di energia è una forma di lavoro, e fa tutta una serie di esempi, diciamo, non poetici, cioè dice, insomma, dicendo quante chilocalorie, cioè misurando proprio il dispendio di energia che presuppone una gravidanza e anche il successivo svezzamento. Ve li risparmio, ma allora, questo lavoro oneroso vale per l'insieme dei mammiferi. In questo ambito la particolarità della specie umana è di non essere sottomessa fisiologicamente all'obbligo riproduttivo, non essendo la sessualità umana né determinata dal ciclo ovulatorio né sincronizzata ad esso. Ciò apre una possibilità di scelta e decisione individuale. La riproduzione può essere intrapresa, ricercata o rifiutata. La gestione della riproduzione trasforma la procreazione da attività naturale in lavoro. La sua non naturalità si manifesta fin dalle più semplici forme di intervento, a partire dalla stessa intenzionalità, e appare con anche il carattere sociale, socialmente organizzato del lavoro riproduttivo. Nella riproduzione l'oggetto del lavoro non fa parte di un mondo fisico distinto ed esterno al lavoratore, ma fa parte del suo corpo stesso. In questo lavoro gli strumenti non sono separati dal corpo femminile. Persona e strumenti si confondono, conseguenza capitale nella riproduzione, l'appropriazione degli strumenti di lavoro e qui della forza o capacità di procreazione e fino a un certo punto del prodotto, il bambino, consiste puramente e semplicemente nell'appropriazione delle persone riproduttrici stesse. Qui lo strumento è una macchina biochimica di un'efficacia formidabile, quale l'attività umana non ha ancora creato. Nella riproduzione la volontà o intenzionalità è presente in una certa misura nella programmazione e nel controllo individuale e collettivo di ciascuna gravidanza, di ogni unità del processo riproduttivo, ma non nel suo svolgimento. Una volta iniziato, esso continua senza richiedere la partecipazione cosciente della riproduttrice e talvolta anche contro la sua volontà. Come qualsiasi lavoro, il lavoro riproduttivo può essere libero o oggetto di sfruttamento. In questo secondo caso, la procreazione è un lavoro alienato e l'agente riproduttore è spossessato di sé. A differenza di altri rapporti di produzione, la gestione della riproduzione implica una relazione di prossimità fisica particolarmente stretta tra la donna che porta a termine la creazione di un nuovo essere e l'uomo che partecipa soltanto alla costituzione della cellula di base, tra la donna che lavora la gestazione e l'uomo che non lavora ma può imporla. E ogni rapporto che tocca così direttamente il territorio corporeo è particolarmente carico. E la Paola Tabet appunto parla, perché in questo articolo parla molto di questo esproprio, diciamo, della maternità e della capacità riproduttiva all'interno nel matrimonio, quindi all'interno di questo tipo di istituzione. L'accesso al territorio corporeo mette in causa la stessa identità, da cui il carattere specifico delle relazioni di riproduzione, da cui la possibilità di un legame di appropriazione materiale che tocca nella sua integrità la persona stessa. Questo carattere specifico delle relazioni di riproduzione è rinforzato dalla coesistenza corporea, dalla lunga simbiosi con il feto, con il bambino che nascerà. Ciò che rende intollerabile la gravidanza imposta. Una donna incinta non può in alcun caso lasciar vivere il feto in maniera puramente passiva. Deve creare e nutrire il feto attraverso il suo corpo e questa simbiosi è spesso difficile, talvolta pericolosa, in tutti i casi è di una intimità senza pari. Lo sfruttamento può consistere non solo nell'imporre la gravidanza, ma anche nel privare l'agente riproduttore della gestione delle condizioni di lavoro, nell'imporre il tipo, la qualità del prodotto, sesso, legittimità, qualità razziale, eccetera, nell'espropriare del suo prodotto l'agente riproduttore, nell'espropriare sul piano simbolico il riproduttore della sua capacità e del suo lavoro riproduttivo. Allora, tutte queste... il linguaggio non è... appunto, è un linguaggio, diciamo, molto... crudo, no? Cioè nel senso asettico quasi, tecnico, ecco, non utilizza volutamente anche, chiaramente volutamente, un tono empatico, diciamo. Però tutte queste cose, queste definizioni di sfruttamento, le ritroviamo insomma nel trattamento delle donne gestanti e per altri e anche nelle donne produttrici di ovociti, di ovuli, e perché appunto, come ci ricordano sul volantino GPA e violenza sui corpi delle donne, ad esempio le donne che firmano il contratto con le aziende, perché ci sono delle agenzie nei paesi in cui viene praticata la GPA, sia commerciale sia quella cosiddetta altruistica, e le donne che firmano il contratto con queste aziende diventano completamente soggiogate sia al volere dei committenti sia a quello dell'azienda stessa. Il contratto di circa 30 pagine racchiude una sequela di obblighi che la donna dovrà rispettare, dimostrando quanta poca autodeterminazione e libertà siano presenti. Basti pensare al divieto per lei di qualunque attività sessuale non approvata dai committenti, oppure al fatto che ad alcune donne che hanno sviluppato una gravidanza gemellare, come spesso capita con la fecondazione artificiale, è stato imposto l'aborto selettivo, dato che ai committenti non andava di pagare un extra per il bimbo in più. Per facilitare il distacco della donna con l'individuo portato in grembo, oltre al fatto che l'ovulo può essere esclusivamente o della donna committente o di una produttrice di ovuli, è previsto un iter di prassi e tecniche psicologiche, non per garantirne il benessere psicofisico, ma per manipolare il sentire della gestante. Per esempio, dopo un determinato periodo della gravidanza, si arriva ad imporre alla donna il divieto di accarezzarsi la pancia, quasi a negare la corporeità di quella gravidanza per altri. Ecco, poi ancora, che se la donna gestante ci ripensa e decide di voler crescere il figlio o la figlia che ha portato nella pancia, come è accaduto in molti casi, i committenti, semplicemente impugnando in sede giuridica il contratto dell'azienda fornitrice della gestante, hanno ottenuto il loro prodotto, quindi il bambino o la bambina, a dimostrazione di quanto la libertà di scelta della gestante venga ulteriormente schiacciata. E, ecco, mi pare che ho parlato tanto, quindi magari mettiamo un pezzo e poi... E ritornando all'epoca dei processi della caccia alle streghe, le autorità non volevano lasciare il controllo della riproduzione nelle mani delle donne delle classi inferiori, e i processi alle streghe furono in parte una battaglia per strappare loro il controllo di questa conoscenza, che fino a quel momento era stata considerata un mistero femminile. La capacità delle donne di controllare la propria riproduzione ne uscì enormemente ridotta. Le levatrici e altre donne vennero escluse dal processo della nascita e le comunità vennero derubate delle loro conoscenze tradizionali. Nella misura in cui i figli e le figlie sono da considerare il prodotto del lavoro delle donne, controllare la riproduzione significava alienare le donne dai loro stessi corpi, controllare quanti figli e figlie aveva ogni donna e quando e dove lì e le doveva avere. In realtà fu necessario almeno un altro secolo perché i dottori uomini ottenessero davvero il monopolio nell'assistenza al parto. E, nel XVII secolo i chirurghi cominciarono a far nascere i bambini e le bambine con l'uso del forcipe, e alle donne fu vietato di praticare la chirurgia. Nel XVIII secolo la maggior parte delle nascite erano assistite da medici, e quando le levatrici in Inghilterra si organizzarono e attaccarono gli intrusi per l'uso pericoloso e commerciale del forcipe, vennero facilmente screditate come vecchie ignoranti, ancora aggrappate alle superstizioni del passato. Il processo della caccia alle streghe aveva gettato i semi di questo atteggiamento. E rispetto a questo discorso della, di espropriare, appunto, di togliere il controllo della riproduzione dalle mani delle donne per metterlo nelle mani della scienza, che poi appunto è maschile, diciamo, da un punto di vista culturale, e viene in mente anche la Barbara Duden, che appunto parla in questo libro Il corpo della donna come luogo pubblico, parla di questa predominio, diciamo, dell'indagine, cioè del guardare dentro il corpo con gli strumenti, con i vari strumenti, insomma, di, appunto, di analisi dell'embrione, eccetera, ecografie e tutti gli altri sistemi anche più invasivi dell'ecografia, e come, appunto, ci dice come questi sistemi contrastino con il sentire, no? Cioè con la una conoscenza, diciamo, ancestrale, per cui le donne prima di tutte queste metodi, diciamo, di indagine percepivano in una maniera, sì, appunto, attraverso il sentire, attraverso la conoscenza delle sensazioni interne del corpo, percepivano un loro stato a prescindere da queste indagini compiute dall'esterno. Ma continuiamo ancora un po' con la Paola Tabet rispetto, appunto, a questo sfruttamento della riproduzione. Le tecniche per domare le donne e imporre loro la riproduzione mirano a realizzare questo sfruttamento. Vere regole d'uso della macchina riproduttiva ne assicurano il buon funzionamento, la messa in moto e il ritmo. Che la forza di riproduzione sia un meccanismo biochimico interno ha reso possibile sia il suo sfruttamento sia l'occultamento dello sfruttamento stesso. La procreazione è stata rappresentata come un processo talmente naturale o automatico che si è potuto negarne il carattere di lavoro e finanche il carattere di attività umana e sociale. Poi ci parla, appunto, anche di questa cosa della placenta artificiale, della insomma, 40 anni fa era meno avanzato di adesso, diciamo, il potere tecnologico, ma comunque c'erano già questi discorsi. E sì, poi ci fa la Paola Tabet fa un lungo discorso anche sulle nutrici, cioè sulle balie, praticamente, perché anche il mercato del latte materno nei paesi come l'India, ad esempio, è un mercato fiorente, nel senso che il latte, insomma, delle donne che sono in periodo di lattazione perché hanno partorito e quindi devono svezzare i loro figli, c'è un latte però in eccedenza, diciamo, che viene messo a profitto. Anche questo viene quindi portato via a queste donne che chiaramente vivono in condizioni economiche, insomma, molto precarie, vengono anche qui derubate per quattro soldi del nutrimento, diciamo, di una parte del nutrimento che servirebbe ai loro figli. E questa cosa comunque avviene al giorno d'oggi in questi paesi dove ci sono, appunto, c'è una miseria considerevole, ma era le balie, insomma, erano fino agli anni 50, per dire, anche in Italia era una pratica, cioè le persone povere, le donne povere, spesso e volentieri dovevano, che magari erano da sole, non avevano, diciamo, una famiglia che le sosteneva, mantenevano se stesse e il proprio figlio o figlia facendo la balia, quindi allattando i figli dei ricchi e delle ricche. E, allora, arriviamo al discorso degli uteri in affitto, sempre in questa, in questo articolo della Paola Tabet. Allora lei ci dice: la capacità, la forza procreativa può di per sé stessa divenire oggetto di scambio. Negli Stati Uniti si moltiplicano le associazioni per l'affitto di uteri in cambio di una certa somma di denaro. Delle donne accettano di farsi fecondare artificialmente e di produrre bambini per altri. Coppie in cui la donna è sterile o preferisce non procreare. Lei, Paola Tabet, si limita a questo, alle coppie diciamo eterosessuali, ma infatti tra l'altro la GPA viene utilizzata prevalentemente, come abbiamo già visto, da coppie che hanno problemi di fertilità. L'uomo locatario di utero, tra virgolette, è allora direttamente ed esplicitamente il datore di lavoro della riproduttrice. La fecondazione artificiale elimina la relazione personale tra i partner e rende in qualche maniera asettica la relazione di lavoro salariato. Abbiamo qui una vendita in cui la forza di procreazione è scambiata nello stesso modo che la forza lavoro. Nella locazione di utero, se la produzione di bambini è direttamente assimilabile alla produzione di merci, anche se non appare come tale al locatario, ciò è in virtù del fatto che la forza di procreazione è, per riprendere i termini marxiani, offerta e venduta dal suo possessore. La donna che accetta di fare un bambino è libera proprietaria della propria forza lavoro, della propria persona. L'acquirente di utero e lei stessa sono entrambi possessori di merci di pari diritti, distinti solo per essere l'uno compratore e l'altro venditore. Persone dunque giuridicamente uguali. E, vabbè, poi insomma, sì, poi dopo, adesso non voglio perdermi anche perché è tardi, ma da questo discorso, praticamente affrontando questo discorso della, anche dell'utero in affitto, Paola Tabet ci dice sì, praticamente questo fenomeno dell'affitto dell'utero è una sorta di punta dell'iceberg di un processo di sgretolamento delle solide strutture che da secoli hanno controllato la riproduzione. Il riferimento è appunto alle famiglie, quindi alle famiglie che per antonomasia sono patriarcali, no? E dice sì, magari questa roba qua in qualche maniera, diciamo, contribuisce a smitizzare la sacralità della maternità, però dice chissà se questa qua è una forma, cioè serve veramente a sgretolare le solide strutture, oppure invece è una forma in cui le strutture si modificano per portare avanti i meccanismi di sfruttamento e di appropriazione, di coercizione in altra maniera. E alla fine, insomma, un po' si va a parare lì, in realtà si va a parare lì. Difatti ci dice, per concludere, in ogni caso la dissoluzione dei legami privati di riproduzione non sembra comportare la fine dei rapporti di dominio maschile, più di quanto la dissoluzione dei rapporti di servitù alla fine del Medioevo europeo non abbia comportato la fine dei rapporti di classe, ma piuttosto la sostituzione di una forma di sfruttamento con un'altra. Però la Paola Tabet ci dà una via d'uscita, diciamo, un'apertura, e lei la individua nella scelta delle donne che scelgono di riappropriarsi di se stesse, e cioè di avere bambini da sole, senza di non vivere in relazioni di servitù. Però dice, quindi, in questa maniera qua, diciamo, va oltre anche al discorso di relazioni, insomma, proprio le interessa il fatto che la donna si riappropria della propria capacità riproduttiva e decide anche di allevare quindi i figli senza la presenza, fuori dal matrimonio, fuori da una relazione, diciamo, sessualmente definita. E però dice, boh, anche questa cosa qua dice: le evoluzioni possibili sono tuttavia difficilmente prevedibili e incerte, nulla ci sarà regalato. E comunque, quindi vabbè, mi fermo qua con la Paola Tabet, ma dico, ma questa cosa qua è interessante, però, nonostante sia stata scritta 40 anni fa, perché quando si parla di tecniche riproduttive si va sempre a parare sulla coppia, cioè si va sempre a parare sulla coppia, magari la coppia non etero, cioè etero ma anche non etero di qualsiasi qualità, ma sempre si tende ad andare a parlare delle due lesbiche, a parlare dei due gay, a parlare di comunque di soggetti in coppia. E questo l'avevamo un po' approfondito anche la scorsa volta, insomma, questo è un segno anche un po' di una ritorno all'ordine, insomma, e di una difficoltà nel ragionare invece in termini, in altri termini, insomma, rispetto alle relazioni affettive e tutto. Allora, siamo quasi in chiusura. Io questo argomento qua comunque non riesco mai a finirlo, nel senso che ci sono tantissime robe che si potrebbero ancora dire. Ritorniamo per finire alle suggestioni della Stefania Consigliere, questo libro che anche l'altra volta avevamo proposto, che è Antropologiche. Stefania Consigliere è antropologa, quindi va a toccare, insomma, tante cose così profonde anche. Allora lei ci dice: il problema fondamentale con cui continuiamo a scontrarci è che nell'ambito del divenire umano ogni particolare messa in forma, ogni attaccamento quindi, agisce attraverso un potere che continuamente rischia di farsi dominio. E ci cita anche una frase della Judith Butler: sebbene la dipendenza di un bambino non sia per il senso comune una subordinazione politica, la formazione della passione primaria durante uno stato di dipendenza rende il bambino vulnerabile alla subordinazione e allo sfruttamento. Con questo, appunto, per andare anche così ad analizzare, e non lo facciamo adesso, ma ad analizzare anche il discorso di questa propensione verso la servitù, la servitù volontaria, diciamo. Dai, finiamo così. Ci dice sempre la Stefania Consigliere: il dominio preclude la potenza. Non solo non si può fare altrimenti, non si può neanche interrompere il far così. Qui è possibile la vita, potrebbe essere il moto del potere che ripara, facendo questa distinzione tra potere e dominio. Solo qui è possibile la vita, l'insegna del dominio che rinchiude. Il conflitto è ciò che caratterizza il divenire soggettivo di ciascuno quando il mondo, così come è stato esperito fino a quel momento, non basta più e bisogna rompere i confini. E bene, per stasera ci fermiamo qua. Intanto al prossimo giovedì, e poi, insomma, vediamo di riprendere nuovamente questi fili continuamente interrotti. Shut up! Bene, sfumo questa band che stiamo ascoltando, anche perché siamo proprio agli sgoccioli, e comunque noi stiamo ascoltando in sottofondo questa band newyorkese, i Coach Slut, e da un loro ultimo album proprio datato 2024, My Life as a Woman. Allora, ricordo che siamo all'ascolto di Zardins Magnetics, che è un programma che è in diretta radiofonica ogni giovedì dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine, anche oggi 9 gennaio 2025, e come di consueto ricordo i nostri contatti per chi volesse scriverci in forma posta elettronica: può farlo intestando a liberetutti@autistica.org, oppure scrivere ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129, Trieste Centro 34121. Inoltre ricordo che questa trasmissione, ma anche quella delle volte scorse, potete andare a riascoltarla nel blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org. E salutiamo tutti, ovviamente l'appuntamento è per il prossimo giovedì, sempre qui Radio Onde Furlane da Udine, e salutiamo anche chi ci ascolterà domani in replica sulla web radio Radiazione dalle ore 17. Bene, ciao a tutti, vi lascio con proprio pochissimi secondi di questi Coach Slut, band newyorkese. Ciao a tutti, al prossimo giovedì.